Ancora maggiore fu quella d'una signora che venne a salutarmi chiamandomi per nome. Mi sforzavo, parlandole, di ricordare chi fosse. Rammentavo benissimo di aver pranzato con lei. Rammentavo certe sue frasi. Ma la mia attenzione, tesa verso la regione interiore che custodiva questi ricordi di lei, non riusciva a rintracciarne il nome. Eppure doveva essere lì. Con esso il mio pensiero s'era impegnato in una specie di gioco per afferrarne i contorni, la lettera iniziale, e infine di svelarlo per intero. Era fatica sprecata. Sentivo approssimativamente la sua massa, il suo peso, ma quanto alla forma, nel confrontarla con l'oscuro prigioniero rannicchiato nella notte interiore, dovevo confessarmi: non ci siamo. La mia intelligenza sarebbe stata certo in grado di creare i nomi più difficili. Malauguratamente, non si trattava di creare, ma di riprodurre. L'intelligenza può compiere agevolmente qualsiasi azione, purché non sottoposta al reale. In quel caso, non potevo evitare che lo fosse. Alla fine, il nome mi venne all'improvviso ed un sol colpo. Madame d'Arpajon. Ma sbaglio a dire che venne, già che non credo che mi sia apparso per sua propria propulsione. Non credo nemmeno che i lievi e numerosi ricordi concernenti quella dama, e ai quali non avevo cessato di chiedere aiuto, con esortazioni del tipo «Ma insomma, è quell'amica di Madame de Souvray che nutre per Victor Hugo un'ammirazione così ingenua, mista di spavento ed orrore». Non credo che tutti quei ricordi, svolazzando fra me e il suo nome, siano in qualche modo serviti a recuperarlo. Nel grande gioco a rimpiattino messo in atto dalla memoria, quando si va in cerca di un nome, ciò che si verifica non è una serie graduale di approssimazioni. Prima non vediamo niente, poi di colpo compare il nome esatto, diversissimo da quello che ci sembrava di intravedere. Non è stato lui a venire sino a noi, no? Io credo piuttosto che, vivendo, noi non facciamo altro che allontanarci dalla zona in cui un nome è qualcosa di ben distinto e che grazie a un esercizio della volontà e dell'attenzione atto ad acuire il mio sguardo interiore, io avessi d'un tratto perforato la semioscurità e visto con chiarezza. In ogni caso, se fra l'oblio e il ricordo vi sono delle transizioni, si tratta di transizioni inconsce. I nomi intermedi attraverso i quali passiamo prima di trovare il nome vero sono infatti nomi falsi e non ci avvicinano per niente all'obiettivo. Spesso non sono neanche in senso proprio dei nomi, ma semplici consonanti che non figurano nel nome ritrovato. D'altronde, il lavorio dell'intelletto che passa dal nulla alla realtà è talmente misterioso che in fin dei conti quelle consonanti false potrebbero essere delle pertiche protese verso di noi in modo preliminare e maldestro per aiutarci a ghermire il nome esatto. Tutto questo, osserverà il lettore, non ci dice niente circa la scarsa compiacenza della dama in questione, ma poiché vi siete soffermato così a lungo, permettetemi, signor autore, di farvi perdere un minuto di più per farvi notare quanto sia spiacevole che, giovane come eravate o come era il vostro eroe, se non si tratta di voi, voi aveste già così poca memoria da non ricordare il nome di una signora che conoscevate benissimo. E in effetti è molto spiacevole, signor lettore. È più triste di quel che non crediate, quando vi si percepisca l'annuncio del tempo in cui nomi e parole spariranno dalla zona limpida del pensiero, e dovremmo per sempre rinunciare a ripeterci i nomi delle persone che abbiamo meglio conosciute. È spiacevole, in effetti, che già da giovani occorra tanta fatica per ritrovare nomi ben noti. Ma se questa infermità ci colpisse solo per nomi appena conosciuti, affatto naturalmente dimenticati e di cui non ci si volesse affannare a ricordarsi, sarebbe un'infermità non priva di vantaggi. E quali? Di grazia. Signore, il fatto è che solo la malattia ci fa notare e capire e ci permette di scomporre i meccanismi che altrimenti non conosceremmo. Un uomo che ogni sera piomba come un masso sul suo letto e non vive più sino al momento di svegliarsi ed alzarsi, un uomo siffatto penserà mai di fare, se non delle grandi scoperte, perlomeno delle piccole osservazioni sul sonno? A malapena sa di dormire. Un po' di insonnia non guasta per apprezzare il sonno, per proiettare una qualche luce in quella notte. Una memoria esente da pecche non può stimolare con efficacia lo studio dei fenomeni della memoria. Ma insomma, Madame d'Arpajon vi presentò o non vi presentò al principe? No, ma tacete e lasciatemi riprendere il filo del racconto. Madame d'Arpajon fu ancora più vile di Madame de Souvray, ma la sua viltà era più scusabile. Sapeva di avere sempre avuto poco potere in società. Tale potere era stato ulteriormente indebolito dalla sua relazione con il signor di Guermantes. L'abbandono da parte del duca gli aveva inferto il colpo di grazia. Il malumore provocatole dalla mia richiesta di presentarmi al principe instaurò in lei un silenzio che con somma ingenuità volle farmi credere dovuto al fatto di non aver sentito quanto le avevo detto. Non si rese nemmeno conto che la collera le faceva aggrottare le sopracciglia. O forse al contrario, se ne rese conto, non si curò della contraddizione e se ne servì per la lezione di discrezione che poteva impartirmi senza mostrarsi eccessivamente grossolana. Voglio dire, una lezione muta e non per questo meno eloquente. D'altronde Madame d'Arpajon era già molto contrariata. Troppi sguardi si erano alzati verso un balcone rinascimentale alle cui estremità, in luogo delle statue monumentali che vi si trovavano così spesso applicate a quei tempi, si sporgeva non meno scultorea la splendida duchessa di Surgir-le-Duc, la donna succeduta a Madame d'Arpajon nel cuore di Bazin de Guermantes. Sotto il leggero tul bianco che la proteggeva dal fresco della notte si scorgeva, flessuoso e come in volo, il suo corpo di vittoria. Non avevo altra risorsa ormai che il signor di Charlus, il quale s'era ritirato in un salotto a pian terreno comunicante col giardino. Ebbi tutto il tempo, dato che si fingeva assorto in una simulata partita di whist che gli consentiva di comportarsi come se non vedesse nessuno, d'ammirare la studiata, artistica semplicità del suo frac, cui alcuni minimi dettagli, che solo un sarto sarebbe riuscito a distinguere, conferivano l'aspetto di un'armonia in nero e bianco di Whistler, anzi in nero, bianco e rosso, giacché, sospesa con un largo nastro al chapeau della marsina, Charlus indossava la croce in smalto bianco, nero e rosso di cavaliere dell'ordine religioso di Malta. In quell'istante la partita del barone fu interrotta da Madame de Gaillardon, che accompagnava suo nipote, il visconte di Courvoisier, un giovanotto con una bella faccia e un'aria impertinente. «Caro cugino», disse Madame de Gaillardon, «permettetemi di presentarvi mio nipote Adalbert. Ecco, Adalbert, questo è il famoso zio Palamed, di cui senti sempre parlare». «Buonasera, Madame de Gaillardon», rispose Charlus, e senza nemmeno guardare il giovane, «Buonasera, signore», aggiunse con tono burbero e una voce così violentemente scortese da lasciare tutti allibiti. Forse, sapendo che Madame de Gaillardon nutriva qualche dubbio sui suoi costumi e una volta non aveva saputo resistere al piacere di alludervi, Charlus aveva voluto tagliar corto a tutti i pettegolezzi che la marchesa avrebbe potuto imbastire se gli avesse accolto amabilmente suo nipote, facendo al tempo stesso una clamorosa professione di indifferenza nei confronti dei giovani. Forse gli era parso che il suddetto Adalbert non avesse corrisposto alle parole della zia con un atteggiamento sufficientemente rispettoso, o forse, desideroso di fare più tardi le sue avances a un così attraente cugino, voleva concedersi il vantaggio di un'aggressione preventiva, come quei sovrani che prima di intraprendere un'azione diplomatica la sostengono con un'azione militare. Non era difficile, come credevo, ottenere che il signor di Charlus accedesse alla mia richiesta di presentazione. Da una parte quel Don Chisciotte s'era battuto negli ultimi 20 anni contro tanti mulini a vento per lo più parenti, che secondo lui si erano comportati male nei suoi confronti. Aveva proibito tante volte che qualche persona assolutamente non ricevibile venisse invitata in casa di questi o queste Germant, che costoro cominciavano a temere di guastarsi con tutti gli amici più affezionati, di doversi privare sino alla morte della compagnia di certi nuovi di cui erano curiosi, per sposare i rancori stentorei ma inesplicabili di un cognato o cugino il quale avrebbe preteso che ciascuno abbandonasse per lui moglie, fratelli, figli. Più intelligente degli altri Gourmand, Charlot si era accorto che ormai si teneva conto dei suoi veti solo una volta su due e, prevenendo il futuro e temendo che un giorno toccasse a lui d'essere quello di cui si fa a meno, aveva cominciato a sacrificare qualcosa, a moderare, come si dice, le pretese. Inoltre, se era capace di rendere insopportabile la vita per mesi, per anni, a un individuo che detestava, non tollerando che gli si indirizzasse un solo invito a costo di battersi come un facchino contro una regina, giacché la qualità dell'ostacolo non contava più nulla per lui, i suoi scoppi di collera erano in compenso troppo frequenti per non risultare abbastanza frammentari. «Quell'imbecille, quel tipo orrendo! Lo ricacceremo al suo posto, lo ributteremo nella fogna, dove purtroppo non mancherà d'essere nocivo alla salubrità cittadina!» si metteva a urlare. Fosse anche da solo in casa sua, scorrendo qualche lettera che giudicava irriverente o ricordando qualche discorso che gli era stato riferito. Ma una nuova collera contro un secondo imbecille dissipava la precedente. E per poco che il primo si mostrasse deferente, la crisi da lui scatenata cadeva nell'oblio, senza essere durata abbastanza per costituire un fondo d'odio sul quale edificare. Così, malgrado il suo malumore nei miei confronti, quando gli chiesi di presentarmi al principe, sarei forse riuscito nel mio intento, se non avessi avuto la malaugurata idea d'aggiungere per scrupolo e perché non mi attribuisse l'indelicatezza d'essermi insinuato lì all'avventura contando su di lui per non farmi scacciare. Sapete, li conosco benissimo, la principessa è stata molto gentile con me. Ebbene, se li conoscete, cosa può servirvi che io vi presenti? Mi replicò in tono sferzante e, voltandomi le spalle, riprese la sua presunta partita con il nunzio, l'ambasciatore di Germania e un personaggio a me ignoto. A questo punto, dal fondo di quei giardini dove un tempo il duca de Guillon faceva allevare animali rari, giunse sino a me, attraverso le porte spalancate, il rumoroso soffio d'un naso che fiutava tante eleganze e non voleva perderne nessuna. Il soffio si avvicinò. Io mi avviai comunque nella sua direzione, col risultato che la parola «buonasera», sussurrata al mio orecchio dal signor di Bruté, vi risuonò non già con il rumore sferragliante scheggiato d'un coltello passato sulla mola per affilarlo, né tantomeno come il grido del cinghialetto devastatore di coltivi, bensì come la voce d'un possibile salvatore. Meno potente di Madame de Souvré, ma meno profondamente inservizievole di lei, molto più a suo agio col principe di Madame d'Arpajon, portato forse a sopravvalutare la mia posizione nel giro dei Germans, o più informato in proposito forse di quanto non lo fossi io, mi fece tuttavia durare qualche fatica in un primo momento a catturare la sua attenzione, giacché, con le narici dilatate e le papille frementi, si girava da tutte le parti, sgranando curiosamente il monocolo come se si fosse trovato di fronte a 500 capolavori. Ma una volta afferrata la mia domanda, l'accolse con soddisfazione e mi accompagnò verso il principe, al quale mi presentò in tono ghiotto, cerimonioso e volgare, come se gli stesse porgendo, raccomandandone la squisitezza, un piatto di pasticcini. Quanto l'accoglienza del duca di Guermont era, quando voleva, amabilmente amichevole, cordiale e familiare, altrettanto quella del principe mi parve compassata, solenne, altera. Mi sorrise appena, mi chiamò gravemente «Signore». Spesso avevo sentito il duca schernire la boria del cugino. Ma dalle prime parole che questi mi rivolse e che, con la loro freddezza e serietà, facevano il più netto contrasto col linguaggio cameratesco di Bazaine, dedussi immediatamente che fra i due il personaggio fondamentalmente sdegnoso era il duca. Con quel suo trattarvi, sin dalla prima visita, da pari a pari, mentre l'uomo veramente semplice era il principe. Colsi nel suo riserbo un maggior sentimento, non dirò d'uguaglianza, che per lui sarebbe stata inconcepibile, ma perlomeno della considerazione che si può accordare a un inferiore, come succede in tutti gli ambienti fortemente gerarchizzati, per esempio in tribunale o all'università, dove un procuratore generale o un preside di facoltà, consci dell'importanza della propria carica, nascondono forse più semplicità reale e, quando li si conosce meglio, più bontà, più semplicità vera, più cordialità nella loro tradizionale alterigia, di qualche collega più moderno nell'affettazione di un cameratismo scherzoso. «Contate di seguire la carriera di vostro padre?» mi chiese con distaccato interesse. Risposi sommariamente alla sua domanda, sentendola dettata da pura cortesia, e mi allontanai perché potesse accogliere altri invitati.